si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 11. Un'occhiata veloce tra poco ai giornali di oggi, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta poco fa, un'oretta fa circa, dalla nostra Giulia Crivelli. E sempre poi a caccia di buone notizie, insomma, continueremo a stare insieme fino alle 11. Partiremo come primo approfondimento dopo il GR delle 9 da un'intervista con il presidente della Coldiretti Moncalvo, con il quale commenteremo una buona notizia di questa settimana. Non ha avuto molto spazio sui giornali e sui media, come spesso capita alle good news, ma era attesa da tempo il marchio unico per l'esportazione dei prodotti agroalimentari italiani, per superare la frammentazione, per affrontare i mercati internazionali con il nostro glorioso Made in Italy in campo agroalimentare. Abbiamo scelto un logo che accompagnerà tutta la filiera all'estero, un logo per la verità denominato in inglese The Extraordinary Italian Taste, lo straordinario gusto dell'Italia, e ne parleremo con il presidente della Coldiretti più avanti dopo il GR delle 9. Adesso, come detto, iniziamo con la rassegna stampa. Vai. Allora, intanto anche i contatti, se volete interagire con noi fin da subito in tempo reale, ci trovate su Facebook, la pagina è Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24 e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Siamo anche al 349-238-6666 se volete mandarci un SMS. Più avanti apriremo il numero verde per i vostri interventi in diretta. Giornali di oggi: attesa per il voto, insomma, si è già aperti, quindi si sta votando. Silenzio elettorale, non possiamo dire molto da questo punto di vista, anche i giornali si tengono abbastanza schisci, come si suol dire. E poi insomma, notizie in ordine sparso: si va in Francia, dove l'ex presidente Sarkozy ha lanciato il suo nuovo movimento politico. Si parla anche, per esempio, della lista nera di Putin. Anzi, partiamo subito da qua con il titolo del Corriere della Sera: la lista nera di Putin, nell'Europa protesta. Cosa succede? Che la Russia ha imposto il divieto di accesso a 89 politici, leader militari europei, una lista nera che l'alto rappresentante per la politica estera europea, l'italiana Federica Mogherini, ha definito totalmente arbitraria e ingiustificata. Cioè, va avanti a testa bassa il presidente Putin su una serie di scelte, da quella di difendere la famiglia tradizionale contro l'apertura ai diritti per i gay, che ormai riguarda tutta l'Europa e tutto il mondo, ma la Russia se ne sta facendo un ballo. Vogliamo venire all'ultimo tema, quello su Blatter, difeso da Putin, mentre tutto il resto, diciamo, dei leader europei, anche se poi è stato rieletto, avevano un po' preso le distanze. Ma insomma, sono tanti i temi su cui la Russia si sta un po' isolando. Che succede? Che c'è anche un'italiana in questo elenco degli 89 occidentali considerati ostili, è Anna Maria Corazza Bildt, è un europarlamentare che ha dichiarato è un attacco agli eurodeputati che hanno preso posizioni per la pace. E poi ci sono anche altri esponenti come Bernard Lévy, il filosofo francese, e l'altro francese Daniel Cohn-Bendit. Questo diciamo è l'universo Russia. Andiamo sul tema invece delle regionali, come dicevamo, tensioni sul voto regionale, scrive il Corriere, titoli un po' gli stessi su tutti gli altri giornali. Repubblica: Renzi non è un voto su di me. Regionali: la cautela di Renzi, scrive La Stampa. Berlusconi: sorpresa in vista, è invece il titolo del giornale che intervista il leader di Forza Italia proprio oggi. Vediamo, sempre sul Corriere, si vota oggi in 7 regioni, lo diciamo anche noi per dovere di cronaca, quello che possiamo dire, insomma, giusto per essere sul pezzo. E 7 regioni e 742 comuni, chiamate alle urne oltre 21 milioni di italiani. Pensate, un test che vale quasi un terzo della popolazione, anzi di più, la popolazione aventi diritto. Non è un test su di me, ha detto ieri il premier Matteo Renzi, ma secondo Forza Italia e il Movimento 5 Stelle è stato violato il silenzio elettorale. Le polemiche però dopo il caso degli impresentabili, sono soprattutto all'interno del PD. Il Corriere con Sergio Rizzo sceglie però anche di fare una spalla dove si vede, dove si va a guardare un po' queste regioni, come si sono comportate in questi anni dal punto di vista per esempio della spesa e dell'essere virtuosi sul fronte dei tagli alla spesa che insomma tutto lo Stato è stato costretto, la pubblica amministrazione, ad affrontare. E ci sono varie leggi, scrive Sergio Rizzo. Non possiamo negare, per tagliare le regioni hanno tagliato, e dalla primavera del 2010, dalla prima drammatica manovra del governo Berlusconi mentre l'Italia era investita in pieno dalla crisi, che la spesa per il personale pubblico, dunque regioni comprese, è bloccata per legge. Di più, due anni prima era stato anche decretato un ulteriore stop categorico alle assunzioni. Peccato, prosegue Rizzo, soltanto che i tagli, pari in tutto al 2,5% della spesa nelle regioni, siano quasi invisibili, per non parlare delle mosse furbesche con cui alcuni enti sono riusciti a evitare la ghigliottina. Per esempio, nel triennio 2011-2013 la Campania ha tagliato, e come, i dipendenti sono stati ridotti di 978 unità, da 6.916 a 5.953. Il record assoluto tra le regioni italiane, record di tagli. Nonostante questo, però, la Corte dei Conti non può non rilevare come la consistenza del personale regionale della Campania sia il doppio rispetto alla Lombardia, che pur di più ha pure il doppio degli abitanti, cioè la Campania, che ha pure tagliato quasi 1.000 dipendenti, a tutt'oggi ha un rapporto personale della regione per ogni 1.000 abitanti superiore a qualunque altra regione italiana. Facciamo un esempio: la Campania ha un rapporto di 1,55. No, scusate, la Campania ha 6.199 dipendenti, la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti, quanti ne ha? 3.146, cioè la metà. Il Piemonte 2.942, il Veneto, che pure è una regione grande, ne ha un terzo, 2.746. Vabbè, questo diciamo è un modo anche per guardare. Naturalmente non è solo la Campania, perché poi lo schema riportato qua sul Corriere c'è tanti dati, però insomma, è un modo per guardare anche a queste elezioni regionali. Sempre dal Corriere, per quanto riguarda il ciclismo, perché ieri c'è stata una tappa del Giro d'Italia molto bella, Aru ha emozionato tutti vincendo la tappa al Sestrier, però non è bastato il distacco imposto a Contador, quasi 2 minuti, che resta leader della maglia rosa e oggi sfilerà vincitore a Milano nell'ultima tappa. Torniamo al caso Blatter però, perché insomma, dopo i grandi echi per l'elezione, nonostante gli scandali che gli sono piovuti addosso ai vertici della FIFA, con 7 arrestati la settimana scorsa, un'operazione partita dalla FBI americana che vede tangenti e fondi neri da qualche parte nel modo in cui la FIFA è stata gestita negli ultimi 20 anni, che succede? Il film di Blatter, Io perdono ma non dimentico, il monarca del calcio mondiale sembra preparare la vendetta contro chi lo ha attaccato. Insomma, non gli basta essere stato rieletto, ma vuol prendersi anche è rieletto per la quinta volta, cioè sono quasi 20 anni che è alla guida del calcio mondiale, l'ottantenne Blatter, ma adesso vuol consumare la sua vendetta. Intanto, chi è che è a rischio di questa vendetta? Per esempio anche l'Italia, perché Tavecchio, il presidente italiano della Federcalcio, che ha votato Alì, l'avversario di Blatter. E per quanto riguarda Roma 2024, cioè la candidatura olimpica di Roma, c'è preoccupazione, scrive il Corriere, perché Blatter avrebbe garantito appoggio a questa candidatura olimpica, ma ora che è stato sostenuto dall'Italia il principe Alì, anziché lui, Blatter non sembra più disposto a sostenere questa candidatura dell'Italia a Roma 2024. Nel frattempo l'UEFA di Platini, che pure stato fotografato sorridente mentre salutava Blatter subito dopo il voto, dopo averlo attaccato apertamente, però l'UEFA di Platini sembra vicina allo strappo e nella riunione che ci sarà tra qualche giorno potrebbe addirittura annunciare l'uscita dell'UEFA dalla FIFA. Non so questo cosa voglia dire, se avrà delle ricadute, se è una cosa interessante oppure no, bisognerebbe conoscere meglio come funziona il calcio, l'organizzazione del calcio mondiale, ma insomma questo è quello che scrive il Corriere. Invece, andando su, su altri giornali, Repubblica, dicevamo, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lanciato un nuovo movimento politico. Sembra quasi anticipare quello che ha in testa Berlusconi in Italia, che vuol fare il Partito Repubblicano di matrice americana. Sembra che si siano parlati, perché Sarkozy ieri ha lanciato che cosa? Le Républicains, un movimento che svolta a destra. L'ex presidente cambia nome all'UMP, acclamato alla Villette da migliaia di militanti del suo partito, una scelta patriottica, ha detto, per sottrarre però consensi a chi? Al Front National, che preoccupa perché è sempre più in crescita nei sondaggi, il Front National di Marine Le Pen. Una svolta questa dei repubblicani, che richiama anche Reagan e Bush, cioè due grandi presidenti americani, grandi per i repubblicani, ma insomma grandi perché hanno fatto la storia dell'America e non solo. Ma la sfida sarà dura, 7 elettori su 10 lo bocciano già. Va bene, questo è quello che accade in Francia sul fronte dei conservatori francesi. Poi invece c'è spazio sulla stampa anche per le parole del Papa. Non lasciamo morire i migranti, ha detto il Papa, perché insomma nel canale di Sicilia sono stati recuperati altri 17 cadaveri su un barcone e 4.000 le persone soccorse negli ultimi tempi, e il Papa ha lanciato questo nuovo messaggio. Poi invece voglio darvi anche quest'altra, che più che una notizia è una petizione, perché sapete che qualche tempo fa il rettore dell'Università di Roma aveva partecipato come giudice alle elezioni di Miss Bikini. Adesso c'è una petizione di alcune donne guidate da Mariana Mazzuccato, che dicono: chiarissimo rettore, insieme con altre firmatarie e di questa petizione su change.org indirizzata ad Eugenio Gaudio, riteniamo che la sua partecipazione come giurato alla selezione di Miss Università tenutasi a Roma il 6 maggio al Billions non sia compatibile con il suo ruolo istituzionale e rappresenti una scandalosa macchia all'Ateneo. Questa petizione la trovate oggi sulla prima pagina di Repubblica, e se volete leggere i dettagli particolari potete andare lì. C'è un'altra petizione, tra l'altro, che a questo punto mi aggancio, che circola in questi giorni, ne avevamo parlato anche noi di Si può fare qualche tempo fa, ed è una petizione che riguarda le scuole. Basta compiti a casa, la petizione dei genitori contro i compiti per le vacanze. Adesso la scuola sta per finire, chiunque ha dei figli in età di scuola, io no, la mia fa ancora la scuola materna, ma insomma prima o poi toccherà anche a me, sa che l'estate si preannuncia da questo punto di vista un dramma, un inferno, perché devi aiutare tuo figlio non tanto a fare dei compiti che sono alla sua portata, come leggere dei libri se fa le elementari o le medie, o tenere un diario sulle proprie vacanze. No, devono compilare questi quaderni di compiti in cui bisogna conoscere la matematica, la grammatica, un sacco di cose giuste e doverose, ma che quando i figli poi non sanno farli si ritrovano d'estate a chiedere a chi? Ai genitori. E i genitori sono costretti a ripassare, a chiamare gli zii che sanno, che sono insegnanti, che conoscono, che si ricordano la grammatica, perché a 40 anni, a 50 anni te la ricordi la grammatica? No, magari non te la ricordi la matematica, magari non te la ricordi, e però come fanno i tuoi figli a fare i compiti? E questo è il dramma dei compiti a casa in quella maniera lì. Allora c'è una petizione online, se vi interessa, l'associazione Montessori l'ha promossa e chiede appunto al ministro di farla finita con i compiti in quel modo, compiti eccessivi, compiti per le vacanze estive per i nostri ragazzi nelle nostre scuole. Io credo che firmerò, anche se, ripeto, mia figlia ancora non è in età di compiti a casa, però diciamo, per l'esperienza indiretta che ho di amici e parenti, credo che non sia sbagliato, insomma. Ecco, magari leggere tanti libri. Quando eravamo ragazzi noi, ve lo ricordate, no? Poco più di 40 anni. Leggevamo, ci davano da leggere tanti libri, tieni il diario delle tue vacanze, era un modo per tenersi allenati. Ci siamo laureati, abbiamo studiato, siamo diventati quasi anche acculturati, senza fare tutti questi compiti a casa. Quindi dovrebbe essere possibile, credo. Allora, in chiusura, velocissimamente, una buona notizia ci vuole per chiudere questo blocco. Vai! And now, the good news! La buona notizia è di metà settimana e riguarda l'accordo che è stato firmato al Ministero per lo Sviluppo sulla nuovi posti di lavoro e la produzione di nuove vetture alla Lamborghini di Sant'Agata Bolognese. 500 posti di lavoro, investimenti dell'azienda per 800 milioni, degli investimenti ce l'ha messi anche il governo con degli incentivi fiscali, pure le rappresentanze sindacali tutte unite, quindi anche questa è una buona notizia, senza distinzione, FIM, FIOM, WILM, tutti quanti hanno accettato qualche sacrificio in più nelle pause, nella diciamo intensità dei ritmi di lavoro, pur di mantenere l'investimento in Italia, avere questi posti di lavoro, il sito produttivo verrà allargato di molto e quindi l'Italia potrà così diciamo portare avanti il suo Made in Italy nel settore dell'auto con una nuova vettura, un SUV in questo caso della Lamborghini, che si chiamerà, se ricordo bene, con il nome di un toro, perché questa è la scelta che fa generalmente la Lamborghini. Adesso non trovo il nome del SUV, mi pare Ursus, ma può darsi che mi sbagli. Insomma, questa è la buona notizia. Vai. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Oggi, il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche e più narrate... Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Questo è il momento di rilassarsi e di godersi tutte le diciamo anteprime culturali dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, del domenicale, che trovate oggi in edicola, e abbiamo con noi Armando Massarenti. Buongiorno Armando. Buongiorno e buona domenica. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, da cosa partiamo? Oggi vedo in copertina uno dei simboli insomma della nostra cultura e del nostro arte. Ecco, il guerriero è uno dei due bronzi di Riace, c'è una copertina che poi per la verità sono greci, no, se non sbaglio. Esatto, sì, cioè, qui si viene fatto appunto risalire con buona probabilità anche il bronzo A, che non era ancora stato ben definito per la sua appunto origine, all'acropoli greca. E qui c'è un bel articolo di Salvatore Settis che ci racconta molto delle origini di questi bronzi, a partire dal fatto che alla mostra della Fondazione Prada ce n'è uno che è stato ricostruito, rifatto, ricolorato, perché un tempo appunto erano colorati, e a partire appunto dai cui pigmenti si sono ricostruiti i colori, e da qui nasce poi tutta un'ipotesi molto affascinante sulla loro origine. Quindi insomma qualcosa che ci sembra sempre di conoscere molto bene, che ci è molto familiare, qui invece si rivela delle storie molto, molto avvincenti. È un pezzo veramente molto bello questo di Salvatore Settis. Poi abbiamo un numero come al solito molto ricco, io farei quasi a volo tutt'uccello, insomma un po' siamo così, tutto orecchie. Ma insomma abbiamo Carlo Carena, uno dei nostri grandi classicisti, che ci parla di una nuova edizione dei Lirici Greci, e Io dormo sola, appunto un verso di Saffo, che lui fa vedere come questo modo molto spigliato e molto comprensibile che noi adesso troviamo a partire da Quasimodo in avanti nella traduzione dei Lirici Greci non era affatto una cosa scontata, e fa vedere come tutte le traduzioni precedenti fossero arzigogolate e poco comprensibili. Quindi insomma Lirici Greci affascinanti, Archiloco, Saffo, tanti altri che possiamo leggere come appunto fossero nostri contemporanei grazie a questa grande opera dei traduttori. Poi abbiamo una cosa molto divertente e anche commovente, i rapporti tra Carlo Emilio Gadda e Goffredo Parise. Domenico Scarpa ci fa capire quanto fosse importante questa amicizia tra i due grandi scrittori nel Novecento, e per Gadda Parigi era un amico, tant'è che proprio quasi in punto di morte lo rievoca. Poi abbiamo, se vogliamo, per chi ama la scienza o per chi vuole difendersi dalla pseudoscienza, un Gilberto Corbellini particolarmente agguerrito, che addirittura confronta gli atteggiamenti un po' irrazionali che abbiamo avuto in Italia contro gli OGM al caso Stamina, cioè un caso tipico, no, di pseudoscienza. E poi abbiamo, ecco, dopo Cannes, dopo che ha vinto la Francia, dopo che gli italiani si sono, come dire, un po' lamentati, eccetera, abbiamo qui un excursus non tanto del film che ha vinto a Cannes da parte di Monreale, che ci scrive un bell'articolo, ma di tutti i film francesi, e quindi facendo vedere che tutto sommato la produzione francese è molto buona, al di là di chi ha vinto a Cannes, e che è molto ben distribuita in Italia, mentre invece molto spesso i film italiani purtroppo non sono così ben distribuiti negli altri paesi. Poi abbiamo, adesso io però mi vorrei concentrare su due cose in realtà. Una è una specie di controcopertina, no, che noi abbiamo fatto. L'ultima pagina del supplemento è dedicata alla, è una pagina che parla di scuola. Noi abbiamo questa rubrica di Paola Mastrocola, una scrittrice che è anche un'insegnante, e che si sofferma su un aspetto della riforma, che è della riforma della buona scuola, no, di cui si è discusso tanto in questi tempi, che è particolarmente importante, che è quello del super preside. Fa un elogio del super preside. Oh, ecco, così rompiamo il muro della esatto. Cerchiamo di essere, appunto, ma anche è una cosa, è un articolo, come sempre nel caso della Mastrocola, è un articolo di grandissima comprensibilità, anche abbastanza spiritoso, ma insomma parte così. Se mi volgo indietro a rivedere i miei anni di scuola da allieva e da insegnante, i presidi che ricordo meglio sono quelli con l'aria un po' truce, che al mattino alle 8 stavano in alto sulla scala ad aspettarci, e se erano le 8 due minuti ci guardavano con un'aria un po' truce, appunto. Bastava quello e di sicuro non facevamo di quei due minuti di ritardo un'abitudine. E poi insomma dice quanto c'è bisogno nelle scuole di avere dei punti di riferimento, no? Questo, avere bisogno di un capo che ci dica che cosa è stato fatto di buono, cosa è stato fatto di meno buono, e che appunto valuti. Allora c'è tutto un bel discorso che fa Mastrocola sulla valutazione a scuola e sul perché il preside può essere un elemento, e poi, insomma, determinante. Come sempre lo voglio dire per chi ci ascolta sul Domenicale, naturalmente sono opinioni, ma opinioni basate sui contenuti, non si tratta naturalmente, no, di questioni ideologiche, perché questa è una questione che ha sollevato molte reazioni, come naturale che sia. Quindi diciamo un punto di vista forte, bello, basato su dei contenuti, scritto da una persona autorevole. Esatto. Quindi ecco. Esatto, io credo che questo articolo potrà avere una sua funzione in un dibattito, appunto per deideologizzare un dibattito, insomma, che siamo quasi in chiusura, però ancora una segnalazione, Armando. Io voglio prima segnalare di una cosa di cui sono molto contento, perché c'è un'opera che è stata presentata a Mannheim in Germania, sì, un'opera buffa vera e propria, scritta da un autore che noi amiamo moltissimo, che è anche un nostro collaboratore, Ermanno Cavazzoni, un grande scrittore. Peraltro è appena uscito Il Pensatore Solitario, che raccoglie molti dei racconti che abbiamo pubblicato nella domenica, e ha scritto ed è debuttato in questi giorni un'opera vera e propria, un'opera buffa, un'opera lirica, insomma, di cui lui ha scritto i testi, e a giudicare da ciò che ci scrive Carla Moreni, che è andata a sentirla, è una cosa assolutamente esilarante. Benissimo. Divertentissima. Trovate tutto sul Domenicale di oggi. Dobbiamo salutarci del GR, grazie. Smau ti aspetta a Bologna 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no one won't be no stick figure, you silly come by with us. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Hey. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti. Eccoci qua a Milano Monterosa, oggi nuvolosetto. No, arrivato che c'era anche un po' di sole, si sta bene, c'è il freschetto della mattina che è molto bello e piacevole, poi arriverà il caldone. Il resto d'Italia, bel tempo sicuramente, ho visto le previsioni, sembrerebbe così. E bene. Ti piace ricordarlo, visto che noi anche il ponte del 2 giugno lo faremo qui, rimanendo in quel di Milano. Chiusi qua dentro in questo studio. Mi piace questo nuovo inizio che hai sempre sulle previsioni. Sì, beh, perché insomma fa parte un po' così dell'atmosfera che c'è intorno a noi che siamo in questo studio a vetri, vediamo fuori ma siamo dentro. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo come sempre ogni sabato e ogni domenica mattina per stare insieme, per commentare le notizie di questa settimana, per raccontarci le vostre buone notizie, per giocare con noi. Tra poco vi spiegheremo il gioco, tra poco invece vi anticipo subito che parleremo con il presidente della Coldiretti, Moncalvo, Roberto Moncalvo. Partiremo da questa notizia che è sicuramente, insomma, sì, una buona notizia. C'è il logo unico per i prodotti agroalimentari italiani che devono andare all'estero. Insomma, l'agroalimentare è uno dei pochi settori dell'agricoltura che va, che tira, segno più. Anche se in settimana abbiamo certificato con nuovi dati, insomma, l'uscita definitiva dell'Italia dalla recessione, quindi insomma, il segno più comincia a affacciarsi in vari settori, però l'agricoltura anche in questi anni di crisi, zitta, dai, soprattutto le esportazioni sono andate molto bene. E questo è l'importante. Adesso c'è questo sostegno che viene direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole per dare, diciamo così, una forza maggiore, un'unità di intenti per far capire cosa è Made in Italy e cosa invece no, perché insomma sappiamo che ci sono tutti questi prodotti che suonano come italiani ma che non sono, e anzi sono delle imitazioni, e quindi bisogna stare attenti a non farsi fregare sostanzialmente. E questo anche noi, oltre agli stranieri, perché all'estero sì, è incredibile, tu vai in dei posti c'è scritto mozzarella italiana, scritto sì, con una Z sola, infatti è poi bello, la mangi e fa schifo. Però purtroppo anche in Italia ormai ci sono prodotti che in realtà non sono italiani ma che in qualche modo sono contraffatti, c'è scritto tipico prodotto italiano e poi invece scopri che viene da questo dobbiamo dirlo a Moncalvo tra poco. Volevamo avere con noi anche il ministro Martina, però oggi è giornata di elezioni, quindi non si può, diciamo, ospitare dei politici, anche se lui non è un candidato, è un ministro. Anzi, come sono le regole? Quindi... che lo sai che tu sei il giornalista, sì, io sono lo stagista, il giornalista in prova, quindi non lo so, non si può nominare nessun partito, non si può nominare nessun politico. Fammi la lezione di giornalismo. Non bisogna far parlare dei candidati alle elezioni, ma non bisogna fare di professioni di voto, dichiarazioni di voto. Ah, ecco. Poi se ti scappa la parola De Luca è già scappata o se ti scappa la parola Caldoro, a questo punto siamo in pari. 800 24 00 24, poi c'è il gioco, cerchiamo come sempre un personaggio della settimana. Intanto dobbiamo dire una cosa, che la settimana scorsa, sì, per la prima volta nella storia di Si può fare, non è stato indovinato il personaggio della settimana. E non era il ministro Giannini, come molti hanno pensato e in tanti avete chiamato la settimana scorsa per dire ministro Giannini, perché parlavamo di una donna e di educazione. Invece era... dobbiamo dirlo che non era, perché sappiamo, sì, che ci sono persone che tutta la settimana che chiamano che dicendo chiamano, noi lo sappiamo qual è il personaggio. Però intanto vi ringraziamo moltissimo, sì, perché è molto bello sapere che durante tutta la settimana, anche se non eravamo in onda, avete chiamato per dare la risposta del nostro quiz di settimana scorsa. Era la donna tedesca che all'età di 65 anni, pur avendo già avuto 13 figli, aveva avuto altri 4 gemelli e quindi insomma si può fare straordinario, che aveva molto diviso l'opinione pubblica tedesca naturalmente. Ah, giusto, perché uno dei nostri indizi, sì, era diviso l'opinione, sì, pubblica. E quindi niente, oggi però ripartiamo, tra l'altro ripartiamo anche con un nuovo premio, lo voglio dire subito, la bellissima Guida alla Salute, edita dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, in edicola tutti i lunedì, è partita l'11 maggio, in vendita con il quotidiano, una collana di 12 guide, noi ve la regaliamo tutta oggi se rispondete alla domanda chi è il personaggio della settimana, se indovinate il personaggio della settimana. E il primo indizio che andiamo a dare è questo: il nostro personaggio ha un grande cuore. È un personaggio difficile. Ormai abbiamo deciso che vogliamo personaggi difficili. 0024, eh sì, se no non possiamo regalarle così queste guide. Allora, ricordiamo che inizia il mese, più che la settimana, dei Pride in giro per il mondo, e quindi sabato prossimo ci saranno il Pride di Pavia, il Pride di Benevento e il Pride di Verona. Sono tutti Pride importanti, perché se non sbaglio sono tutti Pride che per la prima volta vengono fatti in quella città. Gay Pride però, sono gay Pride. Ci sono tanti anche Pride, tanti altri Pride. Sì, no? Però vengono ormai chiamati Pride, penso, perché giustamente sono in generale in difesa dei diritti, ovviamente in difesa dei i diritti LGBT e per chiedere i diritti. Adesso poi dopo LGBT. Il referendum irlandese, insomma. Esatto. Sì, dopo il referendum irlandese in realtà c'è stata una reazione della Chiesa piuttosto violenta. Infatti aspettiamo tutti Papa Bergoglio per vedere che posizione ha. La reazione è stata quella di Parolin, che ha detto che è stata una sconfitta per l'umanità. Onestamente, insomma, siccome faccio anch'io parte dell'umanità, non credo che sia una sconfitta, oppure non faccio parte dell'umanità, e questo dobbiamo capirlo. Comunque abbiamo i pride sono importanti. Ce la faremo, vediamo. Esatto, sono pride importanti tutti, perché sono in città più piccole, ci tengono molto a. È molto giusto che i pride, secondo me, siano nella città e non semplicemente che ci sia un unico pride a Roma, perché è molto facile che tu, magari sei omosessuale, vai a Roma un giorno per fare la festa. Invece devi giustamente stare nella tua città, di modo che si veda che magari il tuo commercialista è omosessuale o il tuo vicino di casa, e quindi è giusto mostrarsi nella propria città. Lo ricordo semplicemente perché ci sono stati forti attacchi a tutti i pride. Ricordo quello di Pavia, c'è stato un attacco degli skinhead che hanno fatto un logo dove c'è un omino nero che massacra di botte un omino rosa. Il prefetto ha fatto togliere il logo, però penso che la manifestazione degli skinhead ci sarà anche a Benevento. Mi hanno detto, siccome io sarò il testimonial del pride di Benevento, mi hanno chiamato ieri e mi hanno detto il questore ha permesso anche la contromanifestazione di Forza Nuova. Quindi, insomma, spero di tornare in radio dopo il 6 giugno, quando sarò a Benevento a fare il testimonial. Vai, partiamo. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Up a Siciliana, all you Calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo. Don't wanna tarantella, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an angelada with the fish baccalà, and then hey gumba. Siamo partiti così, giocando volutamente sugli stereotipi dell'Italia nel mondo, questa canzone che, diciamo, ci fotografa ormai da qualche annetto, però insomma, perché è di questo che vogliamo parlare con il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Buongiorno. Eccoci qua, grazie per essere con noi di domenica mattina a quest'ora, presidente Moncalvo, perché insomma la notizia, l'ho detto, è questa: è arrivato il logo atteso, il segno unico e distintivo per l'agroalimentare italiano all'estero, per tutta la filiera. Si chiama The Extraordinary Italian Taste. Per la verità, secondo me si poteva anche fare in italiano, ma di questo magari parleremo tra un attimo. Finalmente però c'è, come dire, un sostegno, un marchio, una forza unica, diciamo così, di intenti per l'agroalimentare italiano all'estero, uno dei pochi settori, lo abbiamo già detto, che va, che tira nonostante la crisi. Una cosa attesa da un po', e però una buona notizia. Beh, questa è una buona notizia ed è un passo avanti significativo, anche perché lo avete ben detto voi, è la prima volta che il paese si muove in modo compatto sulla promozione dei propri prodotti agroalimentari nel mondo. Abbiamo una grande sfida, che è quella di combattere il falso made in Italy, il cosiddetto Italian Sounding, che vale almeno 60 miliardi del mondo. Lo facciamo forti di un export che sta continuando a crescere ed è cresciuto anche in questo periodo di crisi, ancora un più 3% nel 2014 con 34,3 miliardi, e quindi la prospettiva, in qualche modo, è la sfida lanciata dal governo di raggiungere i 50 miliardi nel 2020. È verosimile, secondo lei, nell'anno, cioè, nell'anno in cui abbiamo anche questa grande vetrina di Expo, con anche questa iniziativa del logo unico, passare da 34 a 50 è molto. Questo è sicuramente una sfida importante. Expo è un'occasione ottima per aiutarci da questo punto di vista. Se contiamo che il falso italiano nel mondo vale 60 miliardi, le potenzialità ci sono tutte. Noi proprio venerdì, in occasione della festa del latte ad Expo, abbiamo presentato un dato sui formaggi negli Stati Uniti, ad esempio, che sono peraltro uno dei mercati su cui punta molto la fase iniziale di sostegno alla promozione del governo. Noi abbiamo negli Stati Uniti addirittura che i formaggi che richiamano l'italianità, e quindi di tradizione italiana, superano quelli di tradizione americana sul mercato statunitense. Peccato che quasi il 99% di quei formaggi venduti come italiani in realtà siano italian sounding, quindi pensate a quanto spazio c'è se riusciamo a promuovere il vero. In realtà sono questi formaggi, scusi? Sono prodotti che richiamano l'Italia. Richiamano l'italianità, ma non sono italiani, non sono italiani. Sono il cosiddetto italian sounding. È evidente che se noi riusciamo invece a promuovere in modo coordinato e intelligente il vero formaggio italiano, il vero cibo italiano, lo spazio che abbiamo davanti è enorme e si traduce inevitabilmente in nuovi posti di lavoro nel nostro paese. Senta Moncalvo, qual è il segreto di questi anni, diciamo, di segno più davanti al settore dell'agricoltura in Italia? Perché insomma noi sappiamo, dati alla mano, che effettivamente ancora oggi, nonostante si parli di un ritorno alla campagna, all'agricoltura, a queste forme di produzione eccetera eccetera, c'è però sempre un deficit di professionalità, di nuovi agricoltori, perché ogni agricoltore che molla, che abbandona per questioni anagrafiche, non sempre, anzi quasi mai viene sostituito, e quindi c'è una perdita. Però nonostante questo il settore è positivo. Qual è il segreto a questo punto della nostra agricoltura? Beh, il segreto sta innanzitutto in un'attenzione che cresce sull'importanza del cibo italiano, sull'importanza di nutrirsi bene, e a questo si affianca un lavoro fondamentale che dà all'agricoltura italiana, al cibo italiano, il primato in termini di qualità, di distintività e di sicurezza alimentare nel mondo. L'agricoltura ha saputo trasformarsi molto in questi ultimi anni, ritrovando un nuovo rapporto con il consumatore anche attraverso la multifunzionalità, e questo ci ha consentito di mantenere oltre 2 milioni di occupati in agricoltura. Calano un po', se noi guardiamo alle imprese giovani, il numero delle imprese perché sì, crescono un po' per dimensione, quindi noi guardiamo le imprese giovani, hanno una superficie media doppia rispetto alla media nazionale, però cresce la possibilità di lavorare come collaboratore di un'impresa agricola, quindi è un settore che cresce nonostante abbia al proprio interno anche piccoli grandi paradossi da superare. Voi li avete ricordati bene prima, il problema del falso Made in Italy non è solo un problema che sta fuori dell'Italia e fuori dall'Europa, ma è un problema anche che riguarda il nostro paese. Ma le giro una domanda di un nostro ascoltatore che scrive un SMS dicendo: la produzione italiana riuscirà a far fronte alla richiesta senza perdere di qualità, visto che giustamente lei stava adesso ricordando che le aziende diventano un pochino più grandi, e appunto ci chiediamo, si riuscirà a far fronte alla richiesta? Lo può fare, lo sta facendo in modo egregio, ad esempio in tutto il circuito dei prodotti a indicazione geografica, denominazioni d'origine, penso ai grandi formaggi, ai grandi salumi, dimostrando che si può fare anche denominazioni con grandi volumi, ma lo si può fare stando aderenti a disciplinari di produzione seri, rigorosi e con controlli importanti che ci consentono di fare grande quantità, ma soprattutto di mantenere altissimo lo standard di qualità e, mi piace ricordarlo sempre, di sicurezza alimentare. Senta, Presidente Moncalvo, uno degli ostacoli, delle barriere per chi vorrebbe fare questa professione o magari già la fa è quello di avere la terra, no? L'accesso proprio alla terra, perché ha dei costi, perché a volte viene immobilizzata, magari inutilizzata. Ci sono delle iniziative in alcune regioni, come per esempio le banche della terra, che recensiscono e cercano di poi offrire a canoni concordati bassi queste terre abbandonate, che nell'esperienza di ognuno di noi si vedono anche andando in giro lungo le strade eccetera. Come si può? Ecco. Su richiesta molto anche dei Coldiretti, dei nostri giovani, negli ultimi anni sono partite diverse iniziative, sia in alcune regioni che questo governo anche a livello nazionale, per mettere insieme in qualche modo tutte le terre che non sono ancora utilizzate, in particolare quelle pubbliche ovviamente, e poterle mettere a disposizione o sotto forma di affitto o sotto forma di vendita con priorità ai giovani agricoltori. Questo è sicuramente un messaggio importante in un paese che vive ancora il dramma di un consumo di suolo che non si è ancora fermato, e da questo punto di vista noi auspichiamo che finalmente la norma che si sta discutendo in questo momento in Parlamento possa diventare realtà, perché per fare agricoltura serve terra, e ogni giorno noi continuiamo invece ad occuparne non solo per infrastrutture ma spesso per nuove urbanizzazioni che hanno poco senso, sì, soprattutto in un momento di crisi come questo. Voglio ricordare anche una notizia che prendo dal sito italiachecambia.org: via libera ai finanziamenti per i giovani che aprono un'impresa agricola. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto stanziati in alcune regioni italiane come Lazio, Molise, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, ci sono iniziative e opportunità anche in Lombardia, Sicilia e Toscana, insomma, per questi finanziamenti a giovani agricoltori, insomma giovani si fa per dire tra 18 e 40 anni, fondi europei credo, per cui insomma qui stiamo entrando nel vivo della nuova programmazione comunitaria che ci accompagnerà fino al 2020, sì, e che prevede con i cosiddetti programmi di sviluppo rurale che in ogni regione possano partire iniziative anche importanti a sostegno delle giovani imprese con contributi a fondo perduto, con contributi anche che agevolano invece il pagamento degli interessi sui finanziamenti, quindi pacchetti importanti di misure che sono figli, sì, della programmazione comunitaria che le regioni stanno implementando in sinergia con il governo e che l'Unione Europea sta mano a mano approvando, quindi in questi giorni proprio sono stati approvati i primi e quindi possono aprirsi le opportunità concrete per le imprese. Ecco, sì, anche per dare una mano proprio a quei giovani di cui parlavamo prima che magari hanno studiato agraria, magari hanno cominciato a lavorare da qualche parte, magari vorrebbero aprire una fattoria, un'azienda agricola, ma non hanno la terra, e un bel finanziamento può essere il modo giusto per iniziare. Voglio farle sentire, Moncalvo, un'ascoltatrice che forse è una domanda per lei, facciamo questa interazione stamattina. Va, Elisabetta da Bari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Le diamo, sì, questa opportunità, una domanda, sì, al Presidente della Coldiretti, prego. Grazie. Buongiorno Presidente. Volevo sapere, per quanto riguarda gli aiuti comunitari, cosiddetta integrazione, pronto Elisabetta? Ecco, sì, lei, per quanto, sì, riguarda, sì, questi aiuti comunitari, l'integrazione, dicendo, sì? Integrazione, volevo sapere, io sono andata a fare la domanda all'ente dove si va e sono rimasta proprio chi ha una quota, chi deve ricevere una quota inferiore ai 250 euro non può fare più la domanda di integrazione. Volevo sapere, questa cosa è andata, cioè non è saputa, così io mi sono ritrovata che non avevo più diritto ad avere questa integrazione perché io prendo meno di 250. Scusi, integrazione di cosa però? Chiariamo un sull'olio, attimo. Sull'alberi di olivo, sul, ecco, sì. Non lo so, Presidente Moncalvo, se Elisabetta è stata abbastanza chiara, io allora, ci ho capito poco. Lei fa riferimento a sostanzialmente il contributo annuale che l'Unione Europea riconosce, sì, agli agricoltori, sì, per il ruolo che hanno, per le produzioni che hanno e per diciamo anche la superficie, la tipologia di colture che esercitano nella propria azienda agricola. E la nuova politica comunitaria prevede che per in qualche modo semplificare l'operatività anche di chi controlla e di chi, sì, fa insomma il lavoro, hanno scelto di ridurre, di evitare che siano erogati premi troppo bassi, quindi che fanno riferimento spesso evidentemente a realtà molto molto piccole. Questa è stata una decisione presa in tutti i paesi ovviamente per comunitari, che quindi porta ad avere appunto l'eliminazione dal diritto al premio per questi, okay, sì, premi, sì, molto bassi. Naturalmente poi insomma le domande potrebbero essere molte, fatte soprattutto da chi fa questa attività, ha un'attività nel settore dell'agricoltura e che quindi per quanto riguarda fondi, permessi e quant'altro, finanziamenti, ha chissà quante curiosità. Una domanda gliela voglio fare io però, Presidente Moncalvo. Ritorniamo al logo unico, The Extraordinary Italian Taste. Io la prima cosa che ho pensato, credo come molti che avranno visto questo logo in settimana presentato dal ministro Martina, ho detto: ma non si poteva fare in italiano, ma non si poteva usare, cioè voglio dire, quando ma serve agli stranieri, però sono gli stranieri che devono leggerlo. Aspetta, fammi finire la domanda. Gli stranieri però non traducono pizza, spaghetti o Nutella con altre parole, utilizzano il termine in italiano, e quindi mi chiedo, non è un po', come dire, addirittura controproducente, un po' freddo, indistinto rispetto alla lingua internazionale, perché quando parliamo di cibo, la lingua mondiale dovrebbe essere italiano. Beh, Evidentemente sì, però qui credo che abbia fatto, abbia come dire, avuto la prevalenza il ragionamento che diceva il suo collega, cioè l'orientamento è quello di utilizzare questo marchio nelle promozioni, nelle fiere internazionali e nei mercati proprio internazionali, e quindi evidentemente se guardiamo al mondo l'italiano non è la lingua più parlata, insomma, quindi evidentemente è stato scelto l'inglese per questo. Però a me piace, al di là del dettaglio, rimarcare che è importante che finalmente un governo abbia capito che intorno all'export del cibo ci giochiamo una parte importante del futuro del nostro paese, e abbia scelto di fare un'azione nuova e coordinata su questo tema. Ma mi scusi, invece le volevo fare una domanda, perché se ho capito bene, questo marchio o segno distintivo unico in realtà è una sorta di cappello nel momento che si farà la promozione dei prodotti italiani, ma noi non lo ritroveremo sui prodotti, quindi di nuovo, come si riconoscono i prodotti se sono italiani o se invece sono contraffatti? Certo, questo infatti è un primo passo che consentirà di fare azioni di sistema nelle fiere e anche nei luoghi di vendita, però azioni coordinate evidentemente dal governo italiano. È un primo passo, è chiaro che sarebbe importante arrivare in futuro ad un riconoscimento sul singolo prodotto, che ovviamente non può prescindere dal fatto che dentro la confezione ci sia prodotto proveniente dai campi italiani e dalle stalle italiane. Perché quello mi sembra più importante piuttosto che quello sarà evidentemente quando si potrà ottenere il risultato dei risultati, in qualche modo che, se volete, anche viaggia in parallelo con quella che è la battaglia storica di Coldiretti, cioè dell'origine in etichetta, esatto. Quindi di poter ottenere proprio con un obbligo normativo che in ogni confezione di cibo ci sia dichiarata l'origine su questo, dei prodotti agricoli. Su questo, Moncalvo, a che punto siamo? Su, esatto, cosa, l'obiettivo è quello. Perché su alcuni prodotti qua, c'è, ma non su tutti. Qui siamo arrivati grosso modo a metà della spesa, tra virgolette, degli italiani con l'origine obbligatoria. Purtroppo spesso, dopo situazioni di difficoltà e di problemi di sicurezza alimentare, penso alla mucca pazza sulla carne bovina o all'influenza aviaria sulla carne avicola. E qui siamo lenti, perché l'Unione Europea evidentemente continua a non voler cogliere un messaggio importante che non viene solo dai consumatori italiani, ma che viene dai consumatori europei. Evidentemente sono ancora forti le lobby di quelle realtà che invece stanno in qualche modo cercando di usare l'origine solo come un elemento di marketing. Questo è un danno, e fa riferimento a quel fenomeno che ricordavate prima, cioè anche in Italia e in Europa questo problema c'è, e in qualche modo nell'ultimo periodo paradossalmente è addirittura stato agevolato dal fatto che non è nemmeno più obbligatorio indicare il luogo dell'origine dell'ultima trasformazione fatta sul cibo, certo. Insomma, quindi c'è una schizofrenia ancora che va in qualche modo messa a sistema a livello europeo. Proprio in questi giorni la Commissione, tra l'altro, ha prodotto alcune relazioni sull'origine in etichetta per le carni trasformate, i formaggi trasformati, che di nuovo non sono buone relazioni, perché comunque continuano a portare avanti il concetto dell'etichettatura volontaria. Noi auspichiamo che il Parlamento europeo faccia il proprio, come dire, porti avanti il proprio ruolo con forza per fare in modo che quello che i consumatori vogliono prima di tutto. Anche perché, insomma, diciamolo, ricordiamolo una volta per tutte, la trasparenza in questo campo non può far male a nessuno, insomma, perché poi ognuno fa la sua partita, vende i suoi prodotti, offre le sue merci nella trasparenza, così i consumatori sanno quello che c'è dentro e scelgono, possono scegliere più o meno tranquillamente, liberamente. Esatto. Grazie al presidente Moncalvo di Coldiretti, buona domenica. Grazie a voi e buona domenica. Volevo dire un'ultima cosa, che tanto non importa, anche se il Presidente non è più al telefono, che in realtà più che l'inglese, secondo me, quando si parla di un marchio, il fatto che sia un marchio così autoelogiativo mi sembrava un po' preoccupante, perché è un po' come se la Nike come marchio scegliesse super scarpe Nike, cioè di mettere dentro che è straordinario. Direi che è straordinario, è bene che lo dicano i consumatori e non i produttori. Sì, io invece penso che, almeno, anzi lo chiedo agli ascoltatori, se sono l'unico a pensare che si poteva fare un marchio in italiano, come hanno fatto i francesi che hanno scelto Bon Appetit e non l'inglese. Perché io penso che quando si parla di cibo nel mondo si parla la lingua italiana e non si parla l'inglese. 800 24 0024. si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. Allora, vi aspettiamo non solo per commentare la notizia di questa settimana che riguarda il The Extraordinary Italian Taste, cioè la scelta dell'Italia per rappresentare l'agroalimentare italiano nel mondo, ma anche per giocare con noi con il personaggio della settimana. Abbiamo detto il primo indizio? Ha un grande cuore. Vai, abbiamo Graziella che ci chiama da Sondrio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica a voi. Grazie altrettanto. Allora, io ho pensato a quel ragazzino, Mickey, che si è risvegliato dopo il coma, dopo essere rimasto 42 minuti nel naviglio. Più un grande cuore di così. È una notizia incredibile di questa settimana, è vero, è vero. Ce la vuole ricordare questo ragazzo che è affogato nel naviglio? È rimasto per 42 minuti. Sì. E contro tutti i protocolli sembrava assolutamente morto, invece è stato rianimato. Sì. È una notizia straordinaria, è vero. E sicuramente questo ragazzo ha un cuore, beato lui, fortunato lui, che lo ha salvato. Però non era lui, pensato a lui. Ma siamo contenti che ci abbia chiamato anche per aver dato questa notizia. Sì. Il bello di questo gioco è che scopriamo notizie che magari a noi c'erano anche più sfuggite. Quindi, Graziella è stata così brava da darci questa bella notizia. Andiamo con Lucilla che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuta. Buongiorno. Grazie. Cosa voleva intervenire Lucilla? Ma no, volevo soltanto dire che anche io sono d'accordo con quanto ha detto lei prima in riferimento al discorso della Coldiretti. Sì. Che usare l'italiano per diffondere l'italianità nel mondo è la cosa più ovvia. È talmente ovvia che non è stata fatta. È talmente ovvia che naturalmente gli italiani non ci arrivano. Sì, guardi, abbiamo avuto in queste ultime settimane, abbiamo avuto il sito Very Bello, quello che doveva promozionare gli eventi culturali legati al periodo di Expo in Italia, che era un misto di italiano e di inglese. Fantastico. Poi abbiamo avuto il nuovo logo di Roma Capitale, che si chiama Rome, con la E, Rome, all'inglese, and you, e anche quello qualcuno ha detto, ma perché dobbiamo farci il male così da soli? E adesso è arrivato The Extraordinary Italian Taste. Esatto. Io e lei pensiamo così, molti altri invece credono che bisogna sprovincializzarsi e andare con l'inglese. Allora, io sono convinta che l'inglese lo si debba assolutamente sapere. Io ho 47 anni, adesso non lavoro, ho una bimba piccola, ma sì, ho sempre lavorato in campi dove l'inglese era assolutamente necessario, lo studio tuttora e lo faccio studiare a mia figlia. Bravo. Ma se devo diffondere l'italianità uso l'italiano. Mi sembra logico. Buon appetito, giusto, direbbero i francesi. Grazie. Grazie Lucilla. Grazie a voi e complimenti. Grazie. Andrea da Livorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, tata, ma mi spiace che non ci sia più il direttore della Coldiretti. Voleva fare una domanda. No, volevo fare alcune considerazioni. Sì. Infatti concordo con voi sul fatto che si debba usare tassativamente italiano per promuovere il nostro marchio. Pronto? Sì, ci siamo. Non sentivo più nulla. Stavamo ascoltando. Dicevo poi, soprattutto volevo basarmi sul fatto che ha parlato bene, ha detto tante cose, però ha omesso di dire che le associazioni di categorie agricole. In ma lei è uno Italia del settore, scusi. Sì, sì, io sono direttore di una importante azienda agricola. Ah, perfetto, vede, quindi se ne occupa sì, di tutto sì, questo. Sì. Le associazioni di categoria che sono CIA, Coldiretti e Confagricoltura, in Italia si fanno la guerra per 10 poltrone che hanno valore, peso e questo purtroppo economica. Anche succede. Quindi si fanno la guerra tra di loro. Sì. Ha omesso di dire, per non dare un messaggio esatto a chi vuole entrare nei clubi di agricoltura, sì, che dalla comunità europea arriveranno circa il 35% meno di fondi rispetto allo scorso anno. In Italia ad oggi non sappiamo ancora quanti soldi ci saranno, se ci saranno e come ci saranno, perché l'unica cosa che hanno fatto, hanno slittato di 3-6 mesi ad oggi le tempistiche per fare le domande, per avere la certezza. Cioè ci sta dicendo che ci saranno meno soldi di quelli che ci sono stati quest'anno. Scusi, era un po' quello che diceva la signora prima, che chiamava sì, dalla Puglia, riferendosi all'integrazione sull'olio. Ci saranno molti meno soldi. Io sì, ho un'azienda io seguo un'azienda che tutti gli anni ha sempre fatto conto su circa 120.000 euro di contributi europei per fare un'agricoltura biologica, per fare un'agricoltura, sì, diciamo che ma non bisognerebbe arrivare a un punto in cui non ci sono finanziamenti, non ci sono fondi né per l'agricoltura biologica né per nessuno, c'è l'autosostentamento, ma si sta sul mercato, no. Non lo so, io lo dico così perché se ci togliessero, sì, il 70% di tasse in più che ci hanno messo da Monti in poi, se ne potrebbe ragionare. Giusto, anche questo, uno scambio, meno tasse e meno finanziamenti. Andrea, voleva aggiungere qualcos'altro? Ci salutiamo, voleva giocare con noi, personaggio? Il personaggio della settimana è indubbiamente, da che ne pensiate voi, ma anche degli ultimi 10 anni, Ruby. Ruby? Ruby, sì. Ruba cuori? Sì. Ha un grande cuore, beh certo, è vero. Ma perché è vero. Perché è il personaggio? No, c'è notizia questa settimana, perché ce lo dica Andrea, c'è stata la motivazione della sentenza? No, non ho detto di questa settimana, perché sì, sono diversi anni che ha, diverse tante settimane, centinaia di settimane che ha un cuore grande. Non lo so, vabbè, è un po' similino. Diciamo che come personaggio, personaggio degli ultimi 10 anni, ne sceglierei altri. Ma c'è notizia di questa settimana, perché sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha assolto Berlusconi sulla questione, sì, e quindi è venuto fuori il nome di Ruby. Forse è per questo che Andrea gli si è accesa la lampadina. Il resto era, non ho capito. Il resto è folklore. Grazie comunque, grazie Andrea, mille per aver partecipato. Hai giocato con noi. 800 24 00 24. Vi aspettiamo tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti, con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Il problema della manodopera in campagna, nell'agricoltura, con un Rino Gaetano dannata, parliamo di questo, ci colleghiamo in qualche modo a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora con il presidente della Coldiretti, ma andiamo in Svizzera, dove l'Unione Svizzera dei Contadini lancia una campagna per accogliere i migranti e i profughi e inserirli proprio al lavoro nei campi, con anche dei begli stipendi. Ne parliamo con il direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, Sam Genini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona domenica. Grazie per essere con noi di domenica mattina, anche a lei Genini. Allora, insomma, il titolo del giornale è stato abbastanza forte, perché gli svizzeri assumono, diciamo, i profughi con stipendi da 2-3 mila euro al mese. Apriti cielo, poi sa com'è in questo periodo con la carenza di lavoro che c'è. Però insomma, questa è una storia di integrazione, ma anche una storia di bisogno di manodopera, perché voi, questo è il punto di partenza, no? Cioè, faticate a trovare gente che venga a lavorare, fare un lavoro di fatica come è questo qua. Pronto? Come prima cosa volevo dire un po' che le informazioni e le notizie su questo progetto, sì, sono un po' sbagliate, se voglio dire così, sì, questo titolo, perché nell'Unione Svizzera dei Contadini, appunto, che è l'associazione mantello dell'agricoltura in Svizzera, nell'Unione Contadini Ticinesi, come ha detto lei bene, che sono il direttore, e che è l'associazione in Ticino di categoria, sì, non stiamo cercando attivamente del personale da impiegare in agricoltura. Questo progetto che è stato discusso, che perché partirà, sì, proprio in questi giorni, è un progetto pilota di 3 anni, sì, che è nato già dall'anno scorso e che abbiamo lanciato in collaborazione con l'Ufficio Federale della Migrazione. Sì. E qual è l'obiettivo? Prevede l'assunzione da parte di 10 aziende, sì, agricole pilota, proprio, sì, in tutta la Svizzera, e solo una in Ticino, sì, di forze lavoro che sono già presenti nella Confederazione, cioè extracomunitari, richiedenti d'asilo o rifugiati, ma che sono riconosciuti e sono già stati ammessi in Svizzera. Sì. Persone che magari stanno godendo già dello status di rifugiato, di profugo, magari hanno un sussidio, un sostegno, e che voi volete inserire anche in un'attività lavorativa. Però quello che io mi chiedo, questo progetto, diciamo, ha come obiettivo una motivazione di solidarietà nei confronti di queste persone, o risponde anche a un bisogno che voi avete in qualche mano, in qualche modo, di appunto di mano d'opera? Io penso che proprio è partito un po' perché anche per far vedere che il settore agricolo è abbastanza attivo e propositivo, perché c'è stata questa l'accettazione l'anno scorso in Svizzera dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Siamo andati a votare e dopo sì, certo, negativo, però la paura appunto a livello svizzero per l'agricoltura è che ci sarà la mancanza per una parte dei 25.000-30.000 stagionali che provengono dagli stati dell'Unione Europea che vengono già a lavorare in Svizzera. Quindi si è detto, c'è passata questa iniziativa, magari adesso dovrà venire messa in pratica, e potrebbero fare dei contingenti per le persone che vengono a lavorare da noi, e l'agricoltura sarebbe molto toccata. Quindi cosa si può fare? Abbiamo lanciato questo progetto pilota per vedere se si può utilizzare le persone che sono già qua, come diceva lei bene, che sono già gravano un po' anche sulle casse statali, così, per integrare quelle persone che sono già qua. E si farà 3 anni per vedere se è possibile, un po' tutte le, per fare un po' di dati statistici e poi vedere cosa si può fare, se è veramente una cosa che sta in piedi, ecco, è un po' quello. Ed è proprio partita dopo questa iniziativa che è stata accettata. Ma di quante persone stiamo parlando? 10. Di dieci persone che voi in tutta la Svizzera. Esatto, in un progetto pilota, un piccolo progetto. No, ma è ottimo, infatti, non c'è nessun giudizio in questo, anzi, mi sembra un'ottima partenza. È per quello che Genini inizialmente ha detto: ah, i titoli dei giornali hanno forzato la mano, perché è un piccolo progetto. Però sa, quando l'idea è buona, la notizia, sì, esatto. Allora si pensa: ah, chissà, magari potrebbe anche essere esportato. Quindi, cioè, al momento non avete un problema di mano d'opera per portare avanti il lavoro nei campi. Perché sa, per esempio, in Italia questa cosa c'è. Molte aziende agricole in Italia vanno avanti anche con il lavoro dei migranti, che magari per stipendi un po' più bassi, però insomma sono disposti a fare quello che è comunque un lavoro faticoso, perché di questo parliamo, no? Sì, no, chiaramente. Non è che non abbiamo bisogno, abbiamo, come detto prima, in Svizzera più o meno 25.000-30.000 lavoratori che vengono dall'Unione Europea, ma che già vengono, che sono già accordati, che vengono ogni anno. Sì. Sono cose, non è che proprio oggi, da oggi al domani, abbiamo bisogno di più manodopera, è un po' quello. E mi dispiace appunto che questi articoli dopo sembrano che hanno un po' illuso le persone, dando un po' delle notizie, dicendo, perché guardi, le assicuro che negli ultimi giorni avremmo ricevuto più di 600 email, chiamate, abbiamo 3 linee telefoniche, quasi tutto il giorno erano piene. Cioè, e dopo mi dispiace dire no, non è così il progetto, è un po' quello che mi dispiace, perché se l'avessimo bisogno veramente sarei il primo a dire ok, però non è così, non era il senso appunto di questo progetto pilota. È stata un po' ingigantita la notizia per farla diventare. Però insomma, se riuscite magari a farlo crescere questo progetto. Potrebbe essere una cosa buona per voi, per la vostra agricoltura, anche per questi profughi, anche per tutta la collettività, perché appunto averli in qualche modo a carico e poterli però invece fare anche lavorare, dargli un lavoro, è sicuramente una cosa positiva. Poi ci saranno sicuramente dei disoccupati che staranno pensando: sì, beh, ma anche noi vorremmo lavorare, anche noi vorremmo avere un lavoro. Forse potete provare a candidarvi in Svizzera, perché esatto, di questo stiamo parlando, non di altro, di Svizzera, di aziende agricole che possono anche avere bisogno in qualche caso di lavoro. Grazie Genini mille per essere stato con noi. Grazie. Buon tutto. Grazie a voi per l'invito. Ricordiamo anche all'ascoltatore che giustamente magari uno si stupisce e dice: come 3.000 euro, ma io vado di corsa. È ovvio che in Svizzera gli stipendi sono più alti, anche perché il costo della vita è più alto. Indizio. Vogliamo dare un secondo indizio. Il nostro personaggio, oltre ad avere un grande cuore, che è il primo indizio, il secondo indizio è che fa un lavoro che fa sorridere. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il giornale radio. Scegliete il libro, mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Just for one day. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Prendi tutto quello che ho, crollami addosso, e quel che posso, e quel che mostro, e qualche mostro mi dirà che noi non ci avremo mai. Prendi tutto quello che ho, che non mi importa, un po' alla volta, fai la scorta e sai ad ogni impronta che poi mi lascerai. Puoi starmi a sentire, avrai poche cose da dire. Non sei stato mio e mai mio sarai tra questa gente. Tutto il bello, tutto il buono porto via nel. Buongiorno e buona domenica a tutti. Questa è Si può fare. Questa che abbiamo appena ascoltato è Ciao per sempre di Levante. È la canzone suggerita da Anna da Imola, una nostra ascoltatrice, perché lei dice è una canzone che parla di un addio con la leggerezza necessaria in certe situazioni. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando di Si può fare in musica, sia che voi siate dei musicisti o dei compositori e abbiate scritto delle canzoni ad hoc, sia che voi invece semplicemente abbiate sentito una canzone e vi sembra una ottima interpretazione di Si può fare. Segnalateceli sui nostri account di Facebook, Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account Twitter chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 vi aspettiamo per giocare con noi. Stiamo cercando un personaggio della settimana. Abbiamo dato due indizi: il primo è che è un personaggio che ha un grande cuore, il secondo è che fa un lavoro che fa sorridere. Vi ricordo che le notizie che abbiamo scelto da approfondire questa settimana sono: siamo partiti dalla presentazione del logo unico, il segno unico distintivo per sostenere l'agroalimentare italiano nel mondo, The Extraordinary Italian Taste. Ne abbiamo parlato col presidente della Coldiretti Moncalvo e insomma ci siamo anche domandati se non si poteva scegliere una forma in italiano, visto che la lingua del cibo nel mondo è l'italiano. Tra poco approfondiremo altre due notizie. Una è quella dell'OCSE sui dati della disoccupazione. Italia in fondo alla classifica per occupazione giovanile, peggio di noi solo la Grecia. Vi racconteremo una storia invece di una nuova impresa fatta da giovani che va quindi in controtendenza e ci segna un po' insomma, la linea che bisognerebbe seguire per anche perché siamo pur questa... sempre Si può fare noi. Siamo Si può fare, certo. E invece tra poco parleremo di un'altra notizia che mentre insomma l'Italia sta cercando di portare avanti questa missione all'interno delle Nazioni Unite per avere una risoluzione sull'intervento in Libia, per tenere sotto controllo la Libia ed evitare, diciamo così, che diventi la porta per il passaggio dei migranti verso il nostro paese, purtroppo c'è un rapporto internazionale di qualche settimana fa che dimostra come l'Italia stia vendendo armi, troppe forse, proprio tra i principali esportatori, proprio in Nord Africa. Quindi insomma possiamo forse poi lamentarci più di tanto se quella zona lì è fuori controllo, se c'è guerra tra bande, perché forse la stiamo alimentando anche noi. Questo direi che è quasi un si potrebbe fare meglio, più che un si può fare. 800 24 00 24. Adesso però abbiamo un po' di ascoltatori. Cominciamo con Elisa che chiama da Genova. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Su cosa vuole intervenire Elisa? Il personaggio della settimana. Sì. Prego. Chi è? Allora, secondo me è il Papa che dopo l'ultimo dramma nel canale di Sicilia, sì, secondo l'associazione Scienza e Vita, ha detto che lasciare morire gli immigrati. Sì, è vero, l'ho letto anche in rassegna stampa questa mattina, però non era lui il personaggio. non era lui. Grazie Elisa, grazie mille di aver chiamato, di averci ricordato il Papa che condanna le morti in mare degli immigrati. Papa Francesco è sempre un personaggio. Andiamo con Max da Roma, buongiorno Max. Buongiorno. Personaggio della settimana, Patch Adams. Patch Adam, e qual è la notizia di questa settimana? Ah, no, non ho proprio idea, ho letto su Huffington che forse compiva gli anni. Ah, non vedi. Ricordo bene. Ah, sì? Patch Adams, sì. Il grande, ce lo ricordi lei, comico, cioè il no, come si chiama? Non comico. Clown, clown, il clown, il medico, medico comico, esatto. Il medico clown, oddio, sì. Esattamente. Però noi vogliamo sempre che ci sia una notizia con il personaggio della credo settimana. Che la notizia sia che il suo compleanno è il 28 maggio. Con un po' di ritardo, però effettivamente era all'interno di questa settimana. Ci in piace effetti. Ricordare Patch Adams, da cui è anche tratto un film, perché sì. Magari qualcuno pensa Robin che Williams. In realtà sia Robin Williams, sì. Invece è un medico appunto che allora. Ha iniziato a fare il clown in corsia. Max, che è un'operazione molto buona che ai bambini serve moltissimo, ai bambini malati. È una bella risposta questa qua, anche perché intreccia perfettamente, incrocia tutti e due gli indizi che abbiamo dati, però in effetti non era lui. È uno di quei casi, grazie Max, in cui in effetti la proposta dell'ascoltatore supera quasi la nostra scelta. Sì, anche se possiamo dare quasi un altro mezzo, non è così lontano, così, non so se posso dare, poi quando uscirà il personaggio si capirà. C'è un aspetto di questo personaggio che è in comune con quello che abbiamo noi. Esatto. È vero. 80024. Ha compiuto 70 anni. 24. Allora, Patch Adams. Patch Adams, sì. Non il nostro personaggio, chiedo scusa. Enrico da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Enrico? Volevo intervenire sul logo unico dell'agroalimentare. Sì. Sono perfettamente d'accordo con lei. Lo scriverlo in italiano, secondo me, avrebbe portato a una serie di fattori positivi. Io stavo ascoltando la trasmissione mentre mi sto muovendo, sì. Per andare a un'inaugurazione da Firenze a Perugia. E però quello che mi ha fatto scattare la voglia di provare più volte il vostro numero di telefono è stato il fatto di sentire lo slogan francese Bon Appetit, sì. Perché io ho la moglie francese da 33 anni e devo dire che in Francia questa idea di parlare francese anche su all'estero è una scelta vincente, e devo dire che se noi insistessimo un pochino di più, io ho dei fornitori inglesi e olandesi, scrivo sempre all'inizio e alla fine dei miei messaggi delle piccole frasi in italiano e vedo che negli anni mi stanno rispondendo in italiano. Bello. Quindi tipo questo è fantastico, Enrico. Molto bene, sentiamoci presto, è stato giusto. Un piacere, ciao, molto bene. Buongiorno. Vero, ciao è un'altra parola che viene usata molto, avendo fatto la scuola tedesca ho in mente di quelle frasi che in effetti si attaccano anche nelle lingue straniere, sì. Tipo molto bene, effettivamente. Sono tante le parole italiane che noi non siamo consapevoli ma sono conosciute all'estero, quindi utilizzarle è parte di un linguaggio internazionale. Si può sempre anche tornare al latino, che ha voglia come linguaggio internazionale, direi che è perfetto. E poi non dimentichiamoci che c'è tutto il mondo della lirica, dove allegro, sì. Prestissimo, certo. Della musica, adagio, certo. Viene certo tradotto in slow o very slow. Questa è una buona idea, di usare prestissimo invece di fast food, potrebbe essere un inizio, solo che stiamo parlando di eccellenze italiane, quindi siamo più verso lo slow food. Grazie Enrico, comunque. Grazie. Prima, un ultimo sì. Dubbio. Sì? No, ricordiamoci che se ci sono degli imprenditori di successo come Farinetti, che si sono inventati questa sigla meravigliosa di Italy, sì. Non è detto che invece l'Italia, che rappresenta tutti i produttori, non possa appunto sposare la nostra meravigliosa lingua. Giusto. Certo. Beh, il logo di Italy è una come dire, un'intuizione notevole dal punto di vista del marketing, però non è l'unica strada che si può seguire quella di giocare solo sull'inglese. Io giusto. Ho proposto quella di utilizzare l'italiano un po' come hanno fatto i francesi con Bon Appetit, e queste sono le risposte degli ascoltatori che stanno arrivando. Forse bisogna usare IT, che è Italian Taste, così sono contenti anche quelli che vogliono usare l'inglese, però IT è comunque la nostra sigla. Io come copy non sono bravo, non avrei dei grossi suggerimenti da dare, però insomma, magari di qui alla però fine ammetto che mi stanno convincendo gli sì. Ascoltatori e mi stanno portando sulla tua posizione, Alessio. Tu che sei normalmente più, diciamo, aperto rispetto alla lingua straniera. Sì. Paolo da Firenze, lo facciamo velocemente prima del traffico. Paolo, buongiorno. I'm calling from Tuscany. Ah, wonderful, provocatorio. What do you want to say? Volevo dire che io per hobby faccio il sommelier, no? E ho avuto notizia che ci sono alcune etichette, sì, di vini anche in Toscana, sì, che stanno cambiando, hanno intenzione di cambiare il logo, quindi il nominativo, sì, con qualcosa di più inglesizzato. Sì, sì, è perché è una tendenza che sta, sì, prendendo piede. Secondo me è una tendenza. Ma tipo, facci degli esempi, cioè Brunello Off Montalcino? Tipo Darchi per il Brunello. Ah, Darchi. Holy Wine per il nostro Vincenzo. No, mi sento male, ragazzi. Però ecco, questo sono... io fino a qua non mi sposto, devo dire, nel senso che non penso che pizza bisognerebbe dargli un nome inglese, o appunto che il Vinsanto bisogna chiamarlo Holy Wine, o che il Brunello di Montalcino, la sua forza è che si chiama Brunello di Montalcino. Io è se ovvio fossi questo. Un americano che vede il Darchi direi: ma questo non deve essere un vino italiano, sarà un vino, sarà un'imitazione, perché se non ha un nome italiano, no. D'altronde sarebbe come se la Apple vendesse qua il suo e dice: vuoi comprare una mela? Sì, non esatto. Mi sembra una buona idea, Paolo. Beh, comunque bel hobby, complimenti, perché grazie. Fare il sommelier è sempre bello, quindi immagino che quando sarete lì a tavola con gli amici, tutti a domandare, a chiedere: ma questo, sì, vino com'è? Ma rottura di scatole con sale a volte, si può dire? Non lo dico. Ah, ecco. Perché... va bene, grazie, va bene, grazie mille. Buona domenica, grazie. Complimenti a voi. 800 24 0024, vi aspettiamo tra poco dopo il traffico. Regione Emilia Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Sulle note di questa Bullet di Franz Ferdinand, per parlare insomma di questa cosa che abbiamo anticipato prima, siamo alle solite, no? Mentre l'Italia si impegna al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per avere una risoluzione, per intervenire e mettere sotto controllo la Libia, scopriamo da un recente rapporto che l'Italia è il principale fornitore di armi del Nord Africa, dove ci sono fazioni in lotta, e in particolare lo sappiamo proprio in Libia, e non è una notizia che insomma ci conforta moltissimo. Come hai detto tu, Carlo, prima è un non si sarebbe si potrebbe fare meglio, si dovrebbe fare meglio. Ne parliamo con Giorgio Beretta, analista della Rete Italiana per il Disarmo. Buona domenica. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, insomma, è anche grazie alla Rete per il Disarmo che le notizie nel campo degli armamenti si vengono a sapere, perché insomma questo non è proprio un mercato, come dire, molto trasparente per forza di cose, ma voi dite si potrebbe fare anche in questo caso meglio. Ci racconta di questo rapporto? Sì, allora, la Presidenza del Consiglio, quindi il Governo, è chiamato ogni anno entro il 30 marzo a pubblicare una relazione dettagliata sulle esportazioni di armi, lo è per legge dal 1990. Il Governo Renzi, come i governi precedenti, ha consegnato al Parlamento per questa data un voluminoso rapporto, sono oltre 1280 pagine, dalle quali però si fa molta fatica a capire che cosa tutti quanti vorremmo capire con chiarezza, cioè quali armi italiane sono esportate verso quali paesi. Si ha una generica indicazione dei sistemi d'arma, armi leggere, sì, cannoni, aeromobili, no? questo genere, sia il valore generico per ogni paese, nel senso di 2 milioni di euro oppure 200 milioni di euro, no? Cifre di questo genere, però non si sa mai con precisione quante e quali armi vanno a finire a quale paese. Dove? A chi? No, esattamente. No? E questo è un problema molto grosso. Dobbiamo tenere presente un fatto, che le armi leggere, soprattutto le armi piccole, sono poi quelle armi che servono per la repressione interna molto spesso e anche poi per alimentare i conflitti, mentre le armi appunto pesanti servono soprattutto per i conflitti. Quindi avere con molta chiarezza, no, e precisione questo dato, che c'era nelle relazioni, nelle prime relazioni del governo Andreotti, diciamo, sarebbe quanto mai importante, auspicabile, soprattutto per un controllo parlamentare. Ma è vero che intanto che l'Italia è il principale esportatore di armi leggere nel mondo? Allora, più che armi leggere possiamo dire di armi comuni, perché è un po' diverso. Armi leggere è molto più ampia, comprende anche... Però questo rientrerebbe un po' in quel capitolo che diceva lei, cioè sicurezza personale, cose di questo genere, cioè non entriamo nel campo dei conflitti in questo caso. No, purtroppo no, perché nelle cosiddette armi comuni sono previste anche le armi per appunto per le polizie, per corpi appunto armati di sicurezza, e spesso anche appunto corpi governativi. E quindi abbiamo, non sono, diciamo, cioè, per capirci, se vogliamo parlare di esperti, le armi automatiche non rientrano in questa categoria di armi comune, mentre le armi semiautomatiche, che sono molto simili di fatto, no? Invece di sparare a razza, ci rientrano. Solo tre colpi. Veniamo però, Beretta, al discorso del Nord Africa, che poi fondamentalmente in questo periodo è... i conflitti legati insomma alle nuove fazioni del terrorismo dell'esercito islamico che si sta riorganizzando, ma anche e soprattutto della Libia. La Libia in guerra tra fazioni, la Libia è la porta aperta, spalancata anche per i trafficanti di clandestini in questi mesi verso il Mediterraneo, verso l'Italia in particolare, e noi siamo fornitori di armi in quelle zone, è così? Tra i principali fornitori? Sì, allora, attualmente ovviamente non ci sono invii di armi in Libia in questo momento specifico. Il problema è che ci sono stati negli anni scorsi. Il dato penso più significativo per capirci è che nel 2009, cioè negli anni in cui, dal 2006 al 2009, 2010, in cui non c'era un embargo di armi verso la Libia, quindi non c'era nessun divieto internazionale di fatto, quando stiamo parlando di violazioni di leggi internazionali in questo caso. No? Però l'Italia è stato il maggior fornitore di armi insieme con la Francia, maggior fornitore europeo di armi appunto alla Libia, e tra questi ci furono qualcosa come 11.000, più di 11.000 tra pistole e fucili appunto semiautomatici venduti al colonnello praticamente della Guardia di Pubblica Sicurezza di Gheddafi, che tra l'altro buona parte di queste furono trovate nei depositi appunto di Gheddafi. Fu il giornalista del Corriere della Sera che entrò in questi depositi addirittura a documentare questa faccenda. Perché Gheddafi le comprò ma non le usò evidentemente? Cioè, sì, non le usò, conservava? Non fece il tempo. Le aveva nel suo deposito, lui scrive letteralmente, ci sono letteralmente casse di armi, potrei fare anche il nome perché l'ha scritto, della ditta Beretta appunto, italiane, no? Sono letteralmente casse di armi e di munizioni. Ecco, dove siano finite? Ma è un caso che si chiami Beretta anche lei, vero? Diciamo che fa parte della teoria del yin yang, diciamo così, no? C'è una perfetto parte, ecco, è la parte buona. Ciascuno decide lui da che parte mettere. Giustissimo. È la parte disarmata. È una battuta, le chiedo scusa. È la parte, sicuramente è la parte disarmata. Senta, Beretta, insomma, quindi diciamo non è facile sapere esattamente quali sono i dati. L'Italia ha venduto sicuramente molte armi in paesi nordafricani, alla Libia in particolare, armi che probabilmente adesso vengono anche utilizzate per tenere fuori controllo, ecco, il paese, e quindi contribuiscono anche a creare il caos che noi stiamo subendo. Posto che insomma, azzerare il traffico di armi, vivere in un mondo di pace e far sparire le guerre dal pianeta è un obiettivo che credo tutti condividano in maniera astratta, quando poi si va sul concreto ci si divide, ognuno la pensa in maniera diversa. Cosa si potrebbe fare però per rendere un po' migliore questa situazione, per migliorare un po' la trasparenza? Cosa potrebbe fare il governo italiano per venire incontro a queste esigenze? Ma, tre cose velocissime. La prima, innanzitutto, esiste ormai per fortuna un trattato internazionale sul commercio di armi che è stato approvato lo scorso 25 dicembre, di cui nessuno ha parlato, stranamente, e che l'Italia ha ratificato insieme ad altri paesi europei, che prevede esplicitamente di non inviare armi a paesi che appunto sono in guerra, in conflitto armato, e a paesi dove ci sono gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Quindi rispettare alla lettera questo trattato sarebbe già il primo passo molto importante, perché poi queste armi prima o dopo vengono usate. E lo stesso vale appunto per la nostra legge, che è la legge italiana, che appunto prevede questa normativa, di questo divieto di esportare armi a paesi in conflitto armato dove ci sono gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Il terzo punto è quello di renderle appunto trasparenti, sia a livello italiano sia a livello europeo. A livello europeo c'è un rapporto che viene solitamente pubblicato un anno e mezzo dopo, quando ormai praticamente le armi sono già arrivate, sono già usate. L'ultimo rapporto è stato pubblicato nel marzo-aprile praticamente del 2015, risale al 2013, ormai quelle armi le hanno fatto il giro del mondo. Ed il peggio è questo, che sia nel Parlamento italiano e sia anche nel Parlamento europeo, i controlli anche parlamentari sono molto deboli. Dal 2008 di fatto i nostri parlamentari, quindi durante diversi governi sto parlando, hanno controllato pochissimo questa relazione che ogni anno viene inviata al Parlamento. Solo lo scorso 18 febbraio, di fatto per un'ora, quindi si immagini un'ora di dibattito per esportazione di armi, di non è moltissimo, come 3 miliardi di euro di armi, esattamente. Questo andrebbe, va ripreso con molta forte, molta chiarezza, perché poi ci lamentiamo tutti quanti, no, di questi conflitti e poi soprattutto degli effetti di questi conflitti, no? I barconi, la gente che scappa, eccetera, eccetera. Certo, ma noi siamo partiti proprio di armi, da qui, sì. Abbiamo rifornito di armi i dittatori precedenti o i conflitti precedenti, è chiaro che poi queste armi finiscono lì e questo è l'effetto. Dovremmo almeno cercare di non avere la botte piena, la moglie ubriaca e i soldi in banca, quello che vorremmo, cioè, in questo caso vorrebbe dire che vorremmo vendere armi, che non ci siano conflitti, che non ci siano effetti di questi conflitti, quindi appunto le popolazioni in fuga e averci anche le armi e averci anche i soldi in banca, perché ecco, questo è un po' troppo quello che aggiungo anche una cosa, che se ci fosse più trasparenza su queste, diciamo, esportazioni di armi, sarebbe un modo per essere anche più consapevoli. Uno può anche volere la fine della guerra in Libia e vendere le armi alla Libia, però se i cittadini lo sanno che questo è stato fatto, poi ne traggono anche un po' le loro conclusioni di ordine generale. Io la ringrazio, volevo aggiungere volevo solamente aggiungere un commento che mi sembra molto giusto, come ha appena ricordato, dire una pistola prima e le armi prima o dopo vengono usate nel momento che vengono vendute. Volevo ricordare una famosa frase di Hitchcock che dice: se una pistola compare in un film, prima o poi sparerà. E quindi mi sembra molto giusto porre l'attenzione su questo. Grazie Beretta, grazie. Buona domenica per essere anche stato a voi, buon lavoro. E allora, insomma, la notizia che abbiamo voluto approfondire era questa, insomma, il recente rapporto sulla vendita delle armi da parte dell'Italia nel mondo, in particolare in Nord Africa, in particolare ancora in Libia, paese fuori controllo, paese dal quale poi partono i migranti e vengono in Italia, e questo è un cortocircuito che stiamo vivendo, al quale stiamo assistendo. Mi era piaciuto quello che hai detto prima, si potrebbe fare meglio, sì. Questo è per un caso in cui si dovrebbe fare, giusto, sì. Ascoltatori, tirateci su un po' il morale a questo punto, perché questo è un argomento molto pesante. 800 24 00 24, c'è il personaggio della settimana, ricordiamo. Bruna da Chieti, buongiorno. Buongiorno. Da Vasto. Provincia di Chieti. Perfetto. Chieti. Si dice Chieti? Chieti. Ma io veramente sono di origine trentina, per cui gli accenti, sì. No, però l'aveva detto in un modo sembrava quasi che... Ma noi accettiamo tutti gli accenti, ci mancherebbe altro. Noi qui abbiamo in regia Paolo Corleoni, che è marchigiano, vero? E quindi è parente. Siamo parenti. Va bene, Bruna, però cosa voleva intervenire? Io sul gioco, sul personaggio. Prego. Chi è? Enzo Iacchetti. Perché? Perché è generoso e fa ridere. Ma c'è una notizia legata agli Iacchetti di questa settimana? No, io lo so da sempre che lui fa molta è molto generoso, aiuta molto i poveri, i paesi. È vero. Allora, è vero, perché. E poi guardi, sì? Appena l'avete detto, il pensiero mio è andato a lui subito. Ah, così. Vabbè, insomma, c'è feeling tra lei e Achetti. Però noi cerchiamo sempre una notizia che sia, diciamo, lo stimolo. Legata alla settimana e non a tutta la vita, insomma. Quindi... È il personaggio della settimana e non il premio Nobel. E quindi in questo caso, comunque, non era Iacchetti e non era lui. Grazie, Bruna. Ringraziamo molto. Allora, sì, gli indizi sono un cuore grande E fa un lavoro che fa sorridere. Tra poco magari diamo un altro indizio. Carlo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Secondo me penso che sia Ferrero il presidente della Sampdoria. Perché? Perché ieri sera l'ho seguito per televisione da Fazio. Sì. Appunto mi è piaciuto come che parlava e come si presentava, ecco. Cioè, perché fa sorridere? Sì, perché fa sorridere. Difatti è un uomo sorridente, sì. E poi molto buono. Fa sorridere soprattutto l'imitazione di Croazza, ma in realtà fa sorridere lui. Fa più ridere lui, direi. Sì, fa sorridere lui, sì, esatto. Fa ridere tutte e due. Va bene. Va bene, la notizia c'è, gli indizi pure, ma il personaggio non è quello che abbiamo deciso. Non era lui. Grazie mille. Grazie Carlo. A questo punto lo aggiungo io, un bel indizio. Il nostro personaggio ama l'arte. È un personaggio che ama l'arte, quindi ripeto, ha un cuore grande, quindi siamo nell'ambito, diciamo, del ha un cuore grande, ecco, fa un lavoro che aiuta a sorridere e ama l'arte. Non è un personaggio proprio famosissimo, cioè cercate magari più tra le notizie relativamente a... Quindi non è Farinetti, vuoi dire, che di solito la chiamata Samantha Farinetti quest'anno non c'è arrivata. Questa da domenica. Due aiuti, non è Farinetti, ma non è neanche Samantha Cristoforetti, che genera la risposta. Che sono i nostri Evergreen. Allora, Fulvio da Ferrara, buongiorno. Chiudiamo con Buongiorno. Fulvio. Sì. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Niente, volevo tentare di dare la risposta. Ottimo. Secondo me più che un personaggio proprio è una situazione. Cioè quello che è successo a Cagliari con l'intervento della nave Garibaldi, che ha aperto le sue camere operatorie al servizio dell'ONLUS, dato un sorriso ai bambini operati di Labro Leporino. Bello. Beh, siamo molto contenti di aver perlomeno dato la notizia e ricordiamo poteva essere assolutamente questa la notizia, perché noi non scegliamo solo personaggi, ma a volte abbiamo scelto anche avvenimenti o anche come si dice, cose, oggetti, personaggi o inanimati, cose figurate. Però in effetti non era questo Fulvio, anche perché l'ultimo indizio che abbiamo appena aggiunto, ma lei aveva già chiamato, è che il personaggio ama l'arte. Infatti, però vabbè, poteva essere l'arte di mettere a posto il Labbro Leporino. Grazie Fulvio, buona domenica. Grazie. Aspettiamo ancora gli ascoltatori all'800 24 00 24 tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. We'll be right back. delle notizie di questa settimana, notizie negative, è che l'Italia si colloca al penultimo posto in Europa, anzi tra i paesi dell'area OCSE, quanto a occupazione giovanile. E insomma, siamo messi maluccio da questo punto di vista. Allora, noi siamo andati a cercare col nostro spirito di Si può fare una storia invece di lavoro, di occupazione, che va un po' con della, l'anternino della con positività. L'anternino della positività, ce l'abbiamo fatta, ci sono tante aziende che ce la fanno e abbiamo trovato una di queste. Infatti, sulle note dei Rolling Stone Start Me Up abbiamo trovato una startup che è Directa Plus. Ne parliamo con l'amministratore delegato Giulio Cesareo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai vostri ascoltatori. Grazie, detto, buongiorno. Detto bene Cesareo o Cesareo? Cesareo va benissimo. Cesareo, perfetto. Come il parto. Come il parto. Senta, la vostra azienda si chiama Directa Plus e si occupa di depurazione, o meglio, quello che abbiamo capito è che sa fare benissimo una cosa, di ripulire le acque dagli oli esausti dei motori. Con che cosa? Con il grafene. Ed è una cosa straordinaria. Ci racconti un po'? La nostra azienda è nata proprio con l'obiettivo di produrre questo materiale interessantissimo e molto innovativo che è il grafene. Lungo il processo di produzione abbiamo scoperto che al primo step, partendo da grafite naturale, creiamo una specie di super fisarmonica dove le particelle di grafene sono collegate sì. Fra di loro soltanto i bordi, ed è una spugna formidabile che ha caratteristiche incredibili nell'assorbire idrocarburi dalle acque. Infatti un grammo di grafene può assorbire 80 grammi di olio motore esausto in acqua. Di olio motore, di petrolio, di gasolio che ha nell'acqua. Quindi tutti i contesti nei quali Pensate. C'è un inquinamento massiccio sì. O anche ridotto ma dannosissimo per l'ambiente sì. Può vedere questo materiale come una soluzione. Cioè, si potrebbe applicare sia magari in quelle acque un po' vagamente inquinate di fiumi, laghi o mari che magari appunto risentono di un inquinamento diciamo basso ma che c'è, sia anche nelle situazioni tipo le petroliere, gli incidenti petroliferi, cose di questo genere, in tutti e due i casi? In entrambi i casi, con una differenza sostanziale, nei grandi spillaggi, nelle grandi sì. fuoriuscite ci sono tante tecnologie. Quando il quantitativo è molto basso, sì. ce ne sono pochissime, sono tutte chimiche, mentre il nostro è un tipo di reazione fisica, quindi che non va ad aggiungere non lascia altre nulla in acqua. Chimiche all'ambiente. E certo. Poi questi grammi di olio attaccati al grafene, cosa sono? Dei salsicciotti che vengono estratti dall'acqua? Sono dei salsicciotti che vengono estratti dall'acqua, abbiamo un prodotto a parte, oppure viene mescolato intimamente con l'acqua, filtrato e recuperato sì. E può essere spremuto e riutilizzato più volte. E alla fine la cosa molto bella è che il cioè prodotto ha una seconda vita, non va in discarica ma può essere usato negli asfalti, quindi addirittura. Il ciclo si completa in modo virtuoso. È straordinaria questa cosa. Avete pensato a tutto voi. È veramente proprio. Straordinaria. Ma senta, ma con tutto questo popò di invenzione avete già fatto una sperimentazione in un lago in Romania, chissà perché in Romania e non in Italia? L'abbiamo fatto in Romania perché uno dei nostri uomini chiavi è un giovane ingegnere chimico rumeno, okay. Ha trovato questa occasione, 30.000 metri cubi da decontaminare. L'abbiamo fatto in tempi velocissimi e con una riduzione dei costi al di sopra del 50% di un processo normale, e abbiamo riversato tutto in un fiume sì. Senza danneggiare la flora e la fauna. Quindi abbiamo la prova provata di quanto... Cioè, mi scusi, allora avete ripulito un lago in Romania spendendo il 50% in meno di quello che si spenderebbe con altre tecnologie e è andato tutto a buon fine. E poi questo lago che si era creato sì. in una pozza dove c'erano dei depositi petroliferi sì. Lo volevano svuotare, hanno usato un fiume e praticamente abbiamo riversato quasi acqua potabile nel fiume, e quindi senza danneggiare, senza creare problemi ai pesci o ad altro tipo di fauna acquifera. Beh, una vera storia di eccellenza italiana. Adesso mi dica che le banche non vi finanziano, che apro la finestra, vado e mi butto giù dal secondo piano di via Montolo. Non mi dica. No, noi abbiamo tanto interesse, bisogna trovare i denari giusti dalle persone giuste, interesse espresso dappertutto, bisogna continuare a crescere, certo. Abbiamo tanti giovani a bordo, li abbiamo portati a bordo subito dandogli un lavoro a tempo indeterminato, che è una cosa importante per dare sicurezza ai giovani. Col Jobs Act o senza Jobs Act? Scusi, col Jobs Act o senza? Molto prima del Jobs Act. Cioè, voi il Jobs Act vi fa un baffo, nel senso che avete le idee buone. Ci fa piacere, ma sapevamo fin da prima che i ragazzi non si può tenere in uno stato di precariato assoluto. Insomma, il mondo si muoveva anche prima del Jobs Act. No, però mi sembra che l'affermazione sia molto importante. Sapevamo già da prima che i ragazzi non vanno tenuti in una situazione di precariato troppo a lungo. Quanti ne avete di ragazzi? In questo momento siamo in 18, diventiamo 19 dall'inizio del prossimo mese, cioè con la prossima settimana, e a parte il sottoscritto che rovina l'età media, abbiamo un'età media dei ragazzi che è nell'intorno tra i 25 e i 30. Il presidente deve essere un pochino più autorevole. Se non ci foste voi, i dati sull'occupazione giovanile sarebbero veramente, veramente terribili, perché producete in Italia, ricordiamolo questo. Senta Cesario, intanto complimenti davvero, perché siete una bella forza. Ma mi dica se sbaglio, un'applicazione come la vostra, una startup come la vostra, che col grafene è in grado di attirare l'olio esausto sulle superfici delle acque, dovrebbe essere, come dire, usata, applicata, chiesta in intervento da parte, per esempio, delle pubbliche amministrazioni, perché chi ha la responsabilità delle acque, no? Cioè, immagino comuni, regioni, province, per ripulire laghi, roba del genere, che però non possono spendere perché c'è il patto di stabilità, non possono investire. È una cosa che vi preoccupa? Beh, sì, da un lato la cosa ci preoccupa perché la partenza è estremamente lenta, dall'altro però non possono spendere, ma ci sono necessità di interventi che vanno comunque fatti, e quel minimo di spesa ci deve essere. Tra l'altro ci tengo a segnalarvi che questo progetto è stato la scorsa settimana premiato dalla Comunità Europea a Barcellona come uno dei 5 progetti di eco innovation più interessanti che ci sono in Europa. Quindi se non è in Italia, le opportunità saranno anche fuori di fare questa attività. Ci stiamo inginocchiando, siamo molto contenti. Idealmente stiamo facendo una standing ovation. E tutto questo nell'impianto produttivo in Italia a Lomazzo, giusto? Sì, a Lomazzo, nel Parco Scientifico Tecnologico di Comonese. Perfetto, ricordo Lomazzo, dico una stupidata a questo punto, perché mio padre raccontava sempre questa storiella quando io ero un bimbetto, che mi faceva molto ridere, che era il capotreno, quando il treno arriva a Lomazzo, che dice chi scende Lomazzo, Lomazzo chi scende. E questa mi faceva molto ridere quando ero un bimbetto. Fantastico, un modo per chiusare tutto. La raccontava anche mio padre. È una battuta della zona, diciamo. Sì. Caramba! Buona domenica Cesario, grazie per essere stato con noi, il presidente di Directa Plus, e questa era insomma l'azienda, la startup che vi abbiamo voluto illustrare, di cui abbiamo voluto parlare oggi. Un'idea innovativa, bella, premio Eco Innovation in Europa, 19 impiegati al momento, speriamo che cresca, e soprattutto, come dicevo prima, che insomma chi ha la responsabilità anche della cura dell'ambiente magari ci sta ascoltando e gli dà subito qualche bel lavoro da fare in giro per l'Italia. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora cari ascoltatori, vediamo se, chissà, anche questa domenica siamo quasi in chiusura. La vedo male, secondo me a rischio di non consegnare il premio, è troppo bello. Noi scegliamo sempre dei personaggi sempre più difficili, perché ormai si intuisce che in realtà vogliamo tenercelo noi il premio, però assicuriamo che se indovinate ve lo diamo. Lo voglio ricordare, la guida alla salute, tutta quella che esce in edicola ogni lunedì con Il Sole 24 ore, 12 guide indispensabili in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, che abbiamo messo in paglio oggi, e se questo personaggio della settimana lo indovinate bene, altrimenti andrà a settimana prossima. Certo, abbiamo già un altro arretrato, perché anche settimana scorsa 2 su 2 sta capitando. Stiamo mettendo premi in cascina per la nuova stagione. Però dell'anno prossimo magari indovina. Alessandro da Varese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, prego. Dunque, allora, per quanto riguarda il personaggio, io avevo pensato a Dario Ballantini, inviato di Striscia la Notizia. Sì, perché? Allora, non ho informazioni in merito a una notizia particolare della settimana, però per quanto riguarda gli altri indizi, mi sembra, se non vado errato, che fa della beneficenza, qualche volta mi sembra che sia stato detto al programma Striscia la Notizia, poi... Aiuta a sorridere sicuramente, sì. Ecco, quindi al cuore d'oro dovrebbe averlo, fa ridere, vabbè, insomma, sì, e poi l'ultimo... L'ultimo indizio che avete dato Amalarte. Ecco, Amalarte mi sembra che appunto durante il programma Striscia la Notizia qualche volta è stato detto che si dedica anche è un pittore, Dario Ballantini è anche un pittore. Però non è lui il nostro personaggio, però grazie mille per aver chiamato. Alessandro, mancava in effetti anche una notizia. Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno ascoltatori. Prego. Che succede? Voce. Sì, ma sì, sì, che meglio. Allora, secondo me il personaggio è Neri Marco Re. E come mai? Perché ha fatto un ha presentato uno show tipo 3 giorni fa, 4 giorni fa a Trento, dove univa la culinaria, nel senso di cucina. Sì, sì, sì, in quale altro senso, mi scusi, poteva essere fraintesa. Andare a sfrucugliare Alessio, che poi escono delle battutacce indicibili. Vai, lasciamo perdere, Roberto. Assieme come si chiama? A Cedroni, che è uno chef pentastellato. Sì. E assieme al presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare Italiana. E hanno fatto questa cosa che mi sembra che va avanti ancora 3-4 giorni. E cosa c'entra con i nostri indizi? Però arriviamo. Vabbè, fa sorridere, sicuramente sì. Il cuore grande e l'arte? Non ci sono. L'arte ci sono. Culinaria. L'arte culinaria. No, attenzione, l'arte è lui che è un attore. È lui, sì, è vero. Anche se noi abbiamo detto ama l'arte. Ma comunque... andiamo per stringiamo. Non è lui, mi dispiace. Lui. Roberto, lui. Grazie. Però, comunque. Però la ringraziamo molto l'aver chiamato. Ma tra l'altro a Trento, quindi vuol dire che era al Festival dell'Economia? Che ne so. Si sente anche tu attaccato. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, se avete ancora qualche minuto potete chiamare, perché noi, se date la risposta esatta al centralino, anche se non riusciamo a mandarvi in onda, vi premiamo, lo diciamo la settimana prossima. Però se invece non chiamate e non indovinate, niente. Chi lo sa. Adesso invece però è il momento delle storie del crowdfunding. Fede. Non me lo posso permettere. Iniziative, imprese, ma anche associazioni, singoli cittadini che decidono di cercare aiuto, sostegno in rete per le loro idee. Federico Taddia, buona domenica, ciao. Buona domenica a voi, ciao. Stavo pensando di fare un crowdfunding con i regali nei vasi da si può fare. Giustissimo. Ci sta tutto. Si è capito che ce li stiamo tenendo noi i regali. Bravi, furbi. Ma anche facciamo le fotocopie in settimana della collana della salute e poi dopo la vendiamo. E non abbiamo fatto tempo a farli tutte, esatto. Allora, hai fatto una descrizione del nostro, non me lo posso permettere, che sembra perfetta per la prima iniziativa di oggi. Vi presento Retake Roma. Retake sono dei gruppi di cittadini, dei guerriglieri urbani, così possiamo definirli, sì, che si sono dati come obiettivi il ripristino del decoro della città. Si sono divisi in gruppetti per quartiere, hanno una casacca blu, e il loro oggetto simbolo è il raschietto. Sai il raschietto, quello che ti permette di togliere gli adesivi dai pali, le macchie da... Mi servirebbe a casa per mia figlia. Bravo. Per esempio, loro amano ripulire le cassette postali, quelle rosse, le fontane. Questi sono i loro obiettivi principali. E stanno chiamando e convocando tantissimi cittadini, perché piace molto anche lo spirito che c'è dietro a questi gruppi. Sono giovani, sono studenti, sono pensionati, è proprio intergenerazionale. Hanno lanciato diversi crowdfunding su apple.com, questa è la piattaforma, uno al grido di idropuliamo Roma cercano 1500 euro per acquistare appunto un'idropulitrice per poter viaggiare per la città pulendo anche, cioè per andare oltre il raschietto. Beh, nel senso che il raschietto è bello però, e romantico, però poi a un certo punto se hai un'idropulitrice te la cavi con un po' meno tempo, anche perché dicono facciamo tutto volontariamente, almeno dateci una mano a comprare l'idropulitrice. Esatto. Vogliamo sentire le ricompense, siamo curiosi. Ti dico solo, l'obiettivo è 1500 euro per l'idropulitrice e 5 confezioni da 5 kg di gel rimuovi graffiti. L'obiettivo che non è male. No. La ricompensa, c'è la possibilità di partecipare a loro, alla loro passeggiata culturale, perché poi ti portano nella città che loro hanno ripulito, ti dedicano con 51 euro una cassetta postale ripulita. No, questa la voglio, questa bella. È stupendo. All'interno del quartiere, con 21 euro, oltre all'adesivo, riconoscimento, eccetera, eccetera, c'è anche il raschietto ufficiale giallo che ti fa diventare ufficialmente membro dei Retake. Fa entrare nella squadra. Com'è che si chiamano? Ricordami il nome. Retake Roma. Apple.com è la piattaforma. Idropuliamo Roma è il nome di questo progetto. In una di quelle domeniche che sono in azione, bisogna assolutamente chiamarli. Voglio sentire il rumore del raschietto in azione. O del retake nel senso di riprendersi Roma? Sì, riprendere, ripulirla, rifarla tornare con bella, la bella, molto bella. Vai, ancora Fede, ancora. Ce n'hai un'altra? C'è un'altra, l'altra è una storia, la storia di Federica Bellecchi, ha 23 anni, originaria delle Marche, laureata in scienze della comunicazione, ci ha provato, ha inviato il curriculum e ha fatto il colloquio ed è stata ammessa alla Columbia University per studiare cinema. La retta è di 80.000 euro, lei questi 80.000 euro non ce li ha e quindi ha lanciato un crowdfunding sulla piattaforma gofundme.com dove descrive il perché del suo sogno, descrive perché vuole fare quella scelta e il suo progetto, quello di unire la tradizione del italiano all'innovazione, quindi creare lavoro e in particolare nelle Marche. E in un mese ha già raccolto 30.000 euro degli 80 che le servono. Beh, insomma, non è male, non è male. Non è male, c'è una bella notizia, nel senso che intanto l'università gli ha dato una borsa di studio di 15.000 Vabbè, dai, allora euro. Diciamo che già le sta andando bene, a questa, questa ragazza, insomma, sai quanti ce ne sono che ma anch'io lo vorrei fare, fatelo, provateci. Il contatto, Fede, il contatto per questa storia? GoFundMe.com Federica Missione per la Columbia University, questo perfetto, è il nome. Perfetto, della... comunque ricordiamo che sui nostri Facebook si trovano tutti gli account, anche nel caso che non abbiate una pena per segnarveli ora. Sul sito di Radio 24, la pagina che si può fare, trovate tutte le notizie in generale del programma, tutti i link e anche le segnalazioni di Federico Taddia. Grazie Fede, buona domenica. Grazie ciao. Mille, ciao. Ciao. Ciao. È tutto per oggi. Un grande grazie ad Andrea Piana, come sempre, autore insieme a noi del programma. Lorenzo Nespoli, oggi in assistenza in diretta. Paolo Colleoni, che abbiamo avuto in regia, con grande piacere. Paolino, noi ci risentiamo sabato prossimo. Assolutamente Carlo. Sì, io invece io sarò a Benevento, dove il 5 presento il libro Fossi in te, io insisterei a Benevento, e poi il 6 sarò al Pride, testimonial del Pride di Benevento. Ciao a tutti, buona domenica da Alessio Maurizio.